Sole abbandonato come un cane senza fiato, penso i giorni accanto a te, chiedendomi perché, per cosa io vivrò, se in questo mondo vagherò, sarò famoso ed ammirato oppure un povero dimenticato. Se saprò amare per davvero, o sarò un cuore menzognero, se riuscirò a sfiorare la tua mano, non sarà caduto in vano. Magari un giorno pregherò un Dio, troverò una strada anch'io, o andrò nel mondo a seminare guerra, distruggerò la terra. Stella della pace, tra oscurità e luce, guardo nei tuoi occhi, vedo i tuoi ricordi, sento la speranza, segui il mio domani, sento il cuore battere, vivo per amare te. Tengo nella mano un mio ricordo vano, che è quello di restare insieme a te. Ora so perché, troppe fantasie, inutili bugie, solo in una stanza giace la speranza. Magari un giorno tornerò da te, a questo cielo chiederò il perché, e griderò a tutta questa gente che ti amerò per sempre. Stella della pace, tra oscurità e luce, guardo nei tuoi occhi, vedo i tuoi ricordi, sento la speranza, segui il mio domani, sento il cuore battere, vivo per amare.